Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Una delle parole chiave della città intelligente è Open Data. Per esempio, ne parleremo nei prossimi giorni. Di recente è stato pubblicato l'Open Data relativo a tutti i beni culturali del Lazio. Vuol dire che per ognuno di essi, 3.000 o giù di lì, sono disponibili tutta una serie di informazioni, dalla localizzazione geografica alla storia del reperto e così via. Informazioni che la pubblica amministrazione già di fatto possiede e che rende disponibili sotto forma di archivio scaricabile da internet. Poi si dice ognuno di questi dati farà ciò che vorrà. L'aspettativa in effetti è che questi archivi costituiscano il terreno su cui, con l'aggiunta di creatività al posto del fertilizzante, possano nascere nuovi servizi, nuove imprese, nuovi modi anche di promuovere il territorio e le sue peculiarità. Alcuni del tutto inaspettati e con un forte contenuto di innovazione, come viene fuori molto bene, io credo, da questa intervista di Federico Pedrocchi. Sentite. Emanuela Zilio, buonasera. Sì, buonasera. Emanuela Zilio di Digital Distillery, però ne parliamo fra un po'. Adesso cosa facciamo? Ci mettiamo in una città dove ci sono delle piante, no? Per esempio, ci sono delle città nelle quali sparse qua e là ci sono anche delle piante molto strane, neanche molto diffuse, no? Bisogna trovarle. Sì. Bisogna trovarle e bisogna anche goderne in qualche modo. Esatto, goderle. Ci sono delle città meravigliose, Venezia è un esempio, dove il patrimonio verde è enorme, poco visto, poco sfruttato, e tantissime altre città dove il patrimonio è un patrimonio che hanno le pubbliche amministrazioni, mappato e molto ben conosciuto a livello di tutela e di manutenzione, ma meno conosciuto per il cittadino. E andare in una città avendo una mappa di strane piante che sono anche odori, profumi, è un'emozione che, se qualcuno non riesce a mettergli intorno, come dire, una cornice per farcela provare, beh, i cittadini e le cittadine non sanno di poterla sentire. Sì, questa è un po' l'operazione che stiamo facendo con Digital Distillery in un progetto che si chiama Draw Emotion. E che nasce proprio dall'esigenza di mettere a sistema questi due grandi patrimoni, grandi chance. Da un lato il dato pubblico, il dato aperto, l'open data che le pubbliche amministrazioni hanno, per esempio del verde, del patrimonio verde di una città, e allo stesso tempo le emozioni che le persone provano quando vivono quel verde, perché ne entrano a conoscenza. Quindi Draw Emotion è uno strumento, è una piattaforma che da un lato raccoglierà gli open data forniti talmente dalle pubbliche amministrazioni, anche costantemente aggiornati, e dall'altro lato però raccoglierà gli input che arrivano attraverso un'app dai telefoni, dai mobile, dagli iPad, dai tablet che le persone utilizzano quando vanno in giro nella loro città. Allora, aspetti che vorrei andare un po' più in profondità. Oltre alle piante, per esempio, una città contiene anche luoghi dove ci sono i segni, non so, piccole storie però significative per quella comunità, sono storie anche sorprendenti, anche lì, no? C'è un percorso di emozioni che si possono suscitare. Però lei dice ci sono le amministrazioni comunali e anche enti più grossi che hanno un insieme di dati e bisogna metterli insieme, bisogna concentrarli, e poi però ci sono anche i cittadini che possono segnalare cose che sono coerenti con questi dati. Bisogna avere una piattaforma che metta insieme questi due contributi per andare a caccia di emozioni un po' particolari. Sì, assolutamente sì. Noi stiamo cercando di raccogliere un database di emozioni più che di dati in sé per sé, perché ci siamo accorti in questi anni di ricerca che lavorando appunto anche con università, con politecnici e quant'altro, che le persone hanno una capacità di apprendere, di far propria un'informazione laddove la sentono propria, ma la sentono propria perché la vivono con i propri sensi, non solo la vedono, la leggono, la studiano o gli viene raccontata, ma ne hanno un'esperienza più profonda. Quindi è un apprendimento molto più profondo, meno intellettuale da un certo punto di vista, ma che se crea un coinvolgimento emozionale forte, poi porta anche all'approfondimento intellettuale e alla memorizzazione del dato. Sì. Quindi dall'insieme dei tanti dati che possono essere a disposizione e concentrati sulle piattaforme, voi dite andiamo ad estrarre quelli che coinvolgono di più il vissuto quotidiano, emotivo, esperienziale delle persone, e non solo quelli che, per quanto utili, ma hanno una funzione semplicemente informativa. Questi qui puramente informativi è relativamente facile metterli a disposizione. Quelli che invece sono più coinvolgenti, bisogna farci un lavoro sopra per estrarli. Assolutamente sì, già faccio un lavoro sopra, anche perché molte di queste sensazioni sono difficilmente categorizzabili. Sì, bisogna trovarle, certo. Esatto, bisogna parametrizzarle, però la cosa è assolutamente stimolante per noi, perché riguarda proprio la modalità con cui le persone vivono un luogo, vivono anche un tempo, no? Mm-hmm. E quindi la possibilità di osservare in modo nuovo lo spazio. E nel momento in cui un cittadino sta bene, può godere di quel posto in moltissimi modi emozionali. Io posso guidarlo a vedere la Parigi che c'è a Milano, sì, e magari lo conduco su dei percorsi emozionali che passano vicino a il panificio che fa la baguette in un certo modo, piuttosto che al piccolo fiorista, piuttosto che al piccolo angolo artistico, no? Evidentemente. Questa vostra attività, dal punto di vista, diciamo, dell'offerta del prodotto, che cosa significa? Che, cioè, ci sarà un indirizzo internet per trovare queste cose, per esempio, in una città che può essere Modena oppure Bari? È così che procedete? Il nostro obiettivo è appunto quello di realizzare una piattaforma che sarà disponibile per le varie città, e delle applicazioni che poi da quest'anno deriveranno a seconda delle esigenze che ci sono in quella città o che vengono espresse dai cittadini. E in questo senso stiamo cercando appunto investitori che vogliano sposare questa iniziativa, perché chiaramente potrà generare un valore estremamente innovativo da questo punto di vista. Grazie a Federico Pedrocchi, grazie a Emanuela Zilio. Anche questa sera siamo in